известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. I do appreciate the president acknowledging that there were legitimate concerns, legitimate issues when it comes to taking temporary federal dollars that could create permanent state spending obligations. Questa è una voce che dovrete prima o poi imparare a riconoscere, perché tutti quelli che se ne intendono dicono che l'attuale governatore della Louisiana, Bobby Jindal, sia l'astro nascente repubblicano. Focused on infrastructure, focused on the kinds of tax credits that would have gotten investment moving in the private sector. In questo discorsetto che ha pronunciato ieri sta criticando, sebbene in modo molto composto, molto educato, come sembra tagliarsi bene al suo carattere, che è quello di un uomo ragionevole, comunque con una forte deriva centrista, ma sta criticando il discorso che oggi pronuncerà Barack Obama, oggi per modo di dire, anzi in termini italiani domani deciso, perché saranno le 3 di notte in Italia quando Obama parlerà alle ore 9 della sera, ora Eastern, tempo di New York negli Stati Uniti d'America. Il discorso è molto importante, anzi viene etichettato come il più importante pronunciato da Barack Obama da quando è presidente degli Stati Uniti d'America, e sarebbe una specie di versione riveduta o corretta di quel discorso che si chiama State of the Union, no? Lo Stato dell'Unione, che un presidente, quando non è stato appena eletto, come è il caso di Obama quest'anno, invece pronuncia all'inizio dell'anno, all'inizio di ogni nuovo anno del suo mandato, di fronte alle Camere riunite. Anche in questo caso ci saranno le Camere riunite, per di più ci saranno anche tutti i giudici della Corte Suprema, ci saranno anche parecchi dignitari internazionali, insomma ci sarà tutta la platea della Washington politica che conta, e Barack Obama parlerà. Poi però toccherà appunto a Bobby Jindal consegnare, no, una risposta della opposizione, e il fatto che sia stato scelto lui la dice lunga su quali possono essere le prospettive a 3 anni da oggi per questo personaggio molto interessante che sta emergendo dal Partito Repubblicano, un Partito Repubblicano che dopo qualche incertezza si è messo decisamente a fare la cosa giusta, cioè a cercare facce nuove. Ha trovato Steele, che è questo nuovo presidente del partito, un nero come Obama, anche lui una persona molto calma, molto collocata all'interno degli equilibri del partito, sicuramente un interlocutore interessante per lo stesso Obama. Ha trovato Jindal, che come sapete è di origini indiane inteso in senso orientale, non in senso indigeno, e poi c'è un altro personaggio invece assai meno misurato che si chiama Rick Santelli, che non ha niente a che fare con la vera politica ma ha molto a che fare con la provocazione, col qualunquismo, col populismo, ma a cui dedicheremo oggi il Facebook, anche perché già ieri ce ne eravamo accorti, ma oggi ce ne siamo accorti ancora di più lanciando così un sasso in piccionaia. Nonostante le sue siano state così provocazioni molto rumorose, però sono state accolte con un certo interesse, hanno raccolto delle reazioni difformi ma comunque da ascoltare. Questo lo faremo fra una decina di minuti nello spazio di Facebook. Invece voglio dare qualche anticipazione riguardo al discorso di Obama, perché già sono trapelate naturalmente ad arte. Dunque si sa che il discorso durerà tanto, qualcosa che sta fra i 50 e i 60 minuti, quindi un discorso estremamente articolato, probabilmente con diversi piani, ma certamente con un grande spessore, e domani dedicheremo al discorso diversi approfondimenti. Sicuramente Obama avrà raccolto quella indicazione che gli è arrivata da più parti, a cominciare proprio dai consigli che pubblicamente purtroppo ma sono stati concessi a Barack Obama dall'ex presidente democratico Bill Clinton, che gli ha detto: guarda, stai camminando sulla strada giusta, l'unica cosa, devi enfatizzare maggiormente i toni ottimistici, devi avere un sorriso al termine del discorso, per quante preoccupazioni, per quanti segnali e negativi o comunque di incertezza possa contenere. Si sa che il discorso avrà quindi essenzialmente un andamento tematico, tematizzato, si parlerà quasi esclusivamente di economia e dei piani che Barack Obama ha messo a punto e sta mettendo ora in opera per battere la crisi, soprattutto quella naturalmente immobiliare, quella delle case, uno degli argomenti che sta più a cuore della amministrazione, visto quanto naturalmente sta a cuore degli americani. Però la frase chiave del discorso di Barack Obama dovrebbe essere proprio che i giorni migliori sono davanti a noi e che la recessione è qualcosa da cui ci dobbiamo staccare. Barack Obama ha fatto sapere ai suoi più stretti collaboratori che del resto se c'è un eterno ottimista, eternal optimist, questa è proprio la sigla che lui utilizza per presentarsi, è lui, insomma, è ben felice in un certo senso di dare così un tocco di positività alle sue parole. Forse aveva preso fin troppo sul serio il compito di presentare con chiarezza, di rendere adulto il partito, il paese che oggi governa, parlandogli con chiarezza, non facendo troppi giri parole, dicendo come le cose vanno e come le cose nella fattispecie vanno male. Nel discorso di ieri Obama si è impegnato comunque a dimezzare il debito del paese entro la fine del suo primo mandato, ovvero entro l'anno fiscale 2013, ha detto ieri conducendo un primo discorso di ordine economico, che bisogna essere onesti sulle dimensioni del deficit del paese, che procederà una revisione riga per riga per evidenziare ed eliminare gli sprechi. Poco fa sentivate Bobby Jindal stava proprio sgridando, nonostante tutto, anche il pacchetto di stimolo sottoscritto, firmato da Obama, perché secondo lui contiene degli sprechi. Metteva per esempio l'accento su 50 milioni di dollari per attività culturali, soldi sprecati. Insomma, a dire una cosa del genere comunque bisogna, secondo me, rifletterci un paio di volte. Poi ancora Barack Obama mantiene comunque, questi sono dati delle ultime 24 ore, il gradimento dei suoi elettori. Pensate che nei tempi moderni nessuno era arrivato ad avere, dopo un mese di presidenza, cioè quando in un certo senso il matrimonio è consumato e bisogna cominciare a vivere la routine, ancora il 63% degli interpellati che approvano l'operato del presidente, di Obama. Erano il 68% all'inizio del mandato, qualcuno si è perso per strada, ma è sempre così. È inevitabile, questo è un indice comunque assolutamente tra i migliori in assoluto. L'aureola dell'insediamento sta cominciando a svanire, dice Gallup, però si deve anche ammettere che il risultato è comunque ragguardevole. Anche ABC News e Washington Post hanno fatto, alla vigilia di questo importante discorso, il proprio rilevamento di popolarità per Barack Obama. Appunto, i risultati sono gli stessi di Ronald Reagan, uno insomma che quanto a popolarità non scherzava, 63, tra il 63 e il 64% registrato da Barack Obama, un risultato indubbiamente eccellente. Vediamo come andrà il discorso questa sera, quali saranno le reazioni a posteriori. Per concludere, una conferma da parte di Barack Obama nei confronti di Timothy Geithner, il segretario al Tesoro, una delle nomine più discusse, soprattutto in tempi così turbolenti naturalmente per il Tesoro americano. Il presidente Obama ha confermato di riporre una fiducia assoluta nei confronti di Geithner, lo ha detto per bocca di Robert Gibbs, che è il capo ufficio stampa della Casa Bianca. Io ho fiducia in lui al 100%, ha precisato ancora Gibbs parlando a nome di Obama, nonostante le critiche che avrebbero colpito Geithner, sapete, in relazione al piano, a quel piano salvabanche da 2.000 miliardi di dollari, cifre che io non ho neanche il coraggio di dire. Infine, si avvicina la nomina del famoso ministro del commercio, quello che l'amministrazione Obama non riesce a nominare perché cadono prima di metterci piede dentro. Adesso la nomina dovrebbe riguardare l'ex governatore dello stato di Washington, Gary Locke, lo indicano fonti della Casa Bianca. La scelta di Locke, se confermata, quindi darà finalmente un ministro al commercio, dopo che sia l'ex governatore del New Mexico, Bill Ritter, Richardson che il senatore del New Hampshire Judd Gregg si erano fermati prima di arrivare al traguardo. Loki è il primo governatore peraltro di uno stato americano di origine cinese, ma sappiamo bene che la globalizzazione, no, il meticciato è all'ordine del giorno nella Casa Bianca di Barack Obama, e bene o male siamo o non siamo nel XXI secolo. Now when I was a little boy at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, made 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. Time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down the Kansas too. Bring back the second cousin, Little John the Conqueror. Dunque, scusi Bob Diddley, si faccia un pelo in là. Ieri in trasmissione, e questo l'abbiamo scritto sul nostro sito Facebook che si chiama Express Yourself, no? Ieri in trasmissione abbiamo notato come siate rimasti interessati dalla provocazione del reporter televisivo di CNBC che si chiama Rick Santelli, quello che nel corso del suo quotidiano servizio dall'area trading della borsa di Chicago è partito lancia in resta con un feroce attacco all'amministrazione Obama, alla sua gestione della crisi, alla presentazione della situazione agli americani. Questa è l'America, ha gridato Santelli, ma quanta gente davvero ha voglia di pagare per il mutuo del vicino se è uno sciagurato che magari si è messo una jacuzzi di troppo? Il governo sta promuovendo cattivi comportamenti. Pensate un po' se tutti smettessimo di pagare il mutuo, no? Se dicessimo non abbiamo più soldi. Obama, stai ascoltando? Ha ammonito ancora Santelli. Questo è un insulto morale. Insomma, la storia ha destato molta inquietudine oltreoceano, no? Il nuovo ruolo dello Stato garante là è un fatto nuovo, davvero è un fatto innovativo, originale. C'è chi giudica Santelli un qualunquista a caccia di pubblicità, chi lo vorrebbe in un ticket repubblicano per il 2012, magari con Sarah Palin. Voi che ne pensate? Vi abbiamo chiesto naturalmente di esprimere le vostre idee. Express yourself. Santelli è piaciucchiato, tu che hai già sono fatto scaldati, sono scaldati. Com'è? Che aria tira attorno a Santelli? Ma tu hai appena detto che Gallup sostiene che la stella di Obama non brilla più come qualche mese fa. Beh, Gallup è cattivo, eh? Però anche i nostri ascoltatori, il nostro pubblico ha qualcosa da ridire, insomma, e ce la prende anche con Obama, perché per esempio c'è Patrick, molto scettico, che dice: penso che questo buonismo da parte di molti governi, in primis quello americano, di salvare tutto e tutti non porterà a molto. Obama sarà pure un buon comunicatore, ma non è sufficientemente smaliziato per fare il presidente. Poi c'è Doriano che dice: sarà anche populismo, ma se sei pagato profumatamente per fare un lavoro e sbagli, devi, lo scrive in maiuscolo, pagare e non essere premiato. Infine Marco pone una domanda retorica, perché dice: il contribuente salva il capitale in crisi, ma se il contribuente è in crisi, il capitale che fa? Corre a salvarlo? No, naturalmente, cerca nuovi mercati ed il governo gli dà una mano. Probabilmente Obama non può fare altro, il coltello dalla parte del manico non ce l'ha lui. Dunque, a Roberto invece Mr. Santelli non sta molto simpatico, dal momento che in modo lapidario dice deve morire schiacciato da un meteorite. Bene. E così anche Santelli è andato. Andrea invece dice: questo signore ha diritto di parola nonostante dimentichi che proprio la solidarietà sociale ha aiutato l'America a uscire dalla Grande Depressione. In Italia, aggiunge, anzi chiude Andrea, non si è letta una riga di critica. Non esiste un Santelli? Santelli italiano mi piace, cercare, adesso, ma... adesso Andrea lo cerchiamo. C'è una Santelli omonima, ma non ha nulla a che vedere. No, ma un Santelli nello spirito. Certo. Maria, sono stufa di pagare per i cattivi comportamenti degli altri. Se si fanno misure anticrisi, qualche cosa deve essere dato in cambio. Qui già siamo più in area santelliana. Antonella, negli ultimi decenni gli Stati Uniti hanno esportato il loro modello di non Stato e ora ne stiamo vedendo i risultati. Bravo Obama a proporre logiche di solidarietà sociale. Mauro, a parte che nel 2012 finisce il mondo, è Nostradamus, con le nuove elezioni americane, mi sembra abbastanza normale che Obama possa non piacere a tutti, sarebbe pericolosissimo il contrario. Allora, devo dire che i pareri degli ascoltatori mi piacciono molto. C'è per esempio Christian che mette sul piatto un argomento anche questo forte e delicato. Dice: solidarietà deve essere un termine difficile da capire negli Stati Uniti, a meno che non ci siano dei terroristi o delle guerre di mezzo, tra parentesi, quindi del petrolio. Per un vicino che ha voluto mettere alle jacuzzi, magari ce ne sono altri 5 e poco più in là che non hanno lavoro. Poi c'è Sergio che praticamente a caratteri cubitali scrive: credo che questo Santelli abbia la memoria molto corta e o il cervello piccolo. Il mutuo a rischio è stato stipulato sotto l'amministrazione Bush. E infine Massimiliano, molto duro anche lui con Santelli, dice: la sua posizione è la classica dei repubblicani, del tipo ognun per sé, Dio per tutti. La stessa sulla salute: se io non mi ammalo mai, perché devo pagare per la salute di un drogato? Esatto. E lo conferma anche Luigi che scrive: Santelli manifesta un pensiero liberista anche se espresso in maniera demagogica. E poi ancora Mukeba dice: Santelli è un provocatore, secondo lui dura 1-2 mesi. E Maurizio scrive: Santelli ha scoperto l'acqua calda, se c'è bisogno di pagare debiti e i soldi a chi non può pagare i debiti che ha già non si possono certo togliere, visto che non ce li ha per definizione. Gli unici rimasti a dover pagare sono quelli che se lo possono permettere, tutti coloro cioè i quali non sono nei debiti fino al collo, come per l'appunto Santelli. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Devi da pagare Santelli. Secondo me la saga di Santelli continua. La saga di Santelli continua. Cominciata. Va bene. Allora, adesso lui sta fondando una specie di partito. Si sta dando da fare. Insomma, voglia, ne sentiremo. Possiamo mandare i nostri commenti. Vuole fare eventi in giro per l'America. Dei nostri ascoltatori. Allora, noi andiamo in Cina perché si avvicina minaccioso questo anniversario del... si avvicina minaccioso il 50° anniversario della cacciata, della fuga del Dalai Lama dalla Tibet. Quel minaccioso, esatto, il minaccioso mi ha fregato. Comunque il 10 marzo saranno 50 anni perché il Dalai Lama lasciò per sempre, fino a questo momento perlomeno, il Tibet nel 1959. Ci fu l'insurrezione tibetana, quindi si preannunciano ricordi dolorosi, significativi, e la Cina corre subito ai ripari, il governo di Pechino, perché ha deciso di vietare l'ingresso ai turisti stranieri fino al 1° aprile. Praticamente le autorità hanno mandato già delle comunicazioni alle agenzie di viaggio, hanno invitato tutte a fermare ogni tipo di intemerata nei confini del Tibet. Avrete saputo dall'informazione Radio 24, che sono assai sollecite al riguardo, che in avvio di seduta Finmeccanica ha perso parecchio, il 4,7%, sulla scia dei dubbi espressi da Obama sulla famosa commessa degli elicotteri presidenziali americani. Ieri Obama con una battuta ha dato una bella stoccata all'appalto che dovrebbe rinnovare questa flotta di elicotteri, mandando in pensione questi Sikorsky, no? Che sono in giro da una trentina d'anni o più. Rispondendo a una domanda dell'ex rivale nelle presidenziali McCain, Obama ha detto di aver ordinato una completa revisione del nodo elicotteri, però poi ha aggiunto: ma l'elicottero che ho adesso mi sembra perfettamente adeguato. Però ha detto: faccio il tagliando, non cambio la macchina. Vai veloce ancora. Allora, in Corea del Nord, che va tenuta d'occhio, e anche Hillary, appena è stata in Asia, ha parlato duramente di Pyongyang. Insomma, la Corea del Nord pare sia pronta a lanciare un missile. Il governo coreano dice vettore per telecomunicazioni spaziali, ma in realtà si sospetta che possa essere in grado invece di contenere testate atomiche che potrebbero raggiungere l'Alaska e la costa occidentale degli Stati Uniti. Il lancio dovrebbe avvenire l'8 marzo. Il Giappone si dice pronto ad affrontare una situazione di emergenza, mentre Seul ha appena diffuso un rapporto che segnala come sia drasticamente aumentato il numero di soldati al confine tra le due Coree, di addirittura 20.000 unità dal 2006 a oggi, toccando quota 1,2 milioni di soldati pronti chissà cosa. Quindi la situazione rimane molto tesa e molto incerta. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you a hard one. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. And the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some bad things have been laid upon your table, but you're notizia che non ha trovato posto nei giorni scorsi, ma che vogliamo dare, per quanto sia così un po' malinconica. Sicuramente ha colto di sorpresa anche Hillary Clinton di ritorno dal suo primo viaggio in Medio Oriente, perché, cari ascoltatori, se n'è andato Sox Clinton. Voi direte chi è, chi diavolo, chi diamine è? Sox Clinton è l'ex primo gatto della Casa Bianca. Non cambiate canale, per favore, la notizia è breve. Gatto dell'età di anni 20, recita una lunghissima agenzia peraltro a lui dedicata, è morto, si è spento nel Maryland, dove era andato in pensione dopo aver lasciato i palazzi della capitale. È il più fotografato degli animali domestici nella storia della Casa Bianca. Faceva 20 anni questa primavera, era malatissimo, pare, e è stato Betty Curry, l'ex segretario del presidente, che lo aveva adottato nel 2001, a chiedere ai veterinari di metterlo a dormire per sempre. In realtà la storia è un po' più sporchetta di così, perché Sox, da che mi risulta, è stato abbandonato. In realtà è stato abbandonato e è rimasta solo la povera Betty. Ha detto: vabbè, me lo porto a casa io, visto che nessuno lo vuole. Comunque, una volta che ha tolto il disturbo, adesso ci sono necrologi piuttosto distinti, fra cui quello di Linda Kullman, che su Sox aveva scritto un libro che è stato anche un best seller, e gli dedica un addio che suona più o meno così: era un gentiluomo. Gatto gentiluomo. Invece noi andiamo a seguire così un po' di sponda, diciamo, le imprese di Hillary Clinton, che peraltro sarebbe attesa in una visita ufficiale in Iraq molto presto per presentare al governo di Baghdad il calendario per il ritiro delle truppe USA. Quindi si entra veramente in una fase, o almeno sembra che si entri in una fase operativa al riguardo. Ma andiamo a parlare di Gaza, andiamo a parlare di una notizia che è emersa da poche ore e che riguarderebbe l'intenzione di fornire un contributo di circa 900 milioni di dollari da parte dell'amministrazione Obama per la ricostruzione della striscia di Gaza. 900 milioni di dollari, una cifra ragguardevole per intervenire in questa zona devastata dalla incursione israeliana che si è conclusa il mese scorso. Gli aiuti, riferisce un funzionario di Washington, però non sarebbero consegnati ad Hamas, che controlla naturalmente il potere nella striscia e che è considerato dal governo americano quasi alla stregua, insomma, di un movimento terrorista, finirebbero nelle casse di organizzazioni non governative, il che non è proprio di una chiarezza illuminante. Il New York Times riferisce si tratterebbe di dare seguito a un'attività di aiuti già avviata con la precedente amministrazione di Bush. Nel mese di dicembre l'ex inquilino della Casa Bianca aveva annunciato un contributo di $85 milioni all'agenzia ONU per i rifugiati. Noi abbiamo in diretta a questo punto da Gerusalemme Paola Caridi, che è corrispondente dal Medio Oriente per Lettera 22, ma scrive anche sul domenicale del Sole 24 Ore, ed ha peraltro in uscita un libro intitolato da Feltrinelli, Hamas, cos'è e cosa vuole il movimento radicale palestinese? Interrogativi assai interessante. Buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio a te. Allora, questa in tempi, no, di stimolo economico di America che piange miseria o comunque si lamenta di una crisi in atto, uno stanziamento di una portata simile, $900 milioni, fa una certa impressione. Poi, quando si cerca di capire, sì, vabbè, tanti soldi, ma dove, come, perché, a chi, mi sembra che diventi tutto estremamente nebuloso. Ci puoi aiutare un po' meglio a capire come una cifra, comunque così ingente, così importante, possa funzionare, cioè in mano a chi finisce e che fine fanno questi soldi, a cosa servono veramente? Dici. Ma insieme a tutte le domande che tu hai posto, cioè come, perché, bisognerebbe anche chiedersi in quanto tempo. E cioè questi $900 milioni che sono stati annunciati andranno solamente a Gaza, andranno all'autorità nazionale palestinese che li dovrebbe gestire poi magari anche un po' da Ramallah, serviranno a ricostruire per esempio le oltre 20.000 case che sono state distrutte, certo, o fortemente danneggiate a Gaza, serviranno per gli aiuti d'emergenza. Sono tutti capitoli che sembrano molto specifici e che invece riguardano l'industria degli aiuti umanitari su Gaza, ma anche sui più complessivamente sui territori palestinesi occupati. L'industria degli aiuti umanitari, tu dici che c'è un vero e proprio movimento di interesse industriale attorno a questi soldi? Ma più che interesse industriale, c'è una, così viene chiamata da queste parti, da noi espatriati ma non solo, certo, l'industria degli aiuti umanitari, nel senso che attorno all'aiuto umanitario non solo ci sono migliaia di persone che ci lavorano, ma sono in gran parte il cuore dell'economia palestinese, che è un'economia che non si sostiene da sola, ma che è un'economia drogata dagli aiuti umanitari, perché altrimenti non sarebbe capace di reggersi. Cioè non esiste una entità palestinese che dal punto di vista economico riesca a essere uno Stato che si regge da solo. Visto dall'altra parte del terminale di questo, insomma, importante, impressionante flusso di denaro, che cosa si pensa? Se ne parla per esempio con chi ha un'opinione al riguardo a Gaza, che cosa dicono di questi soldi? Come vengono visti? Un scetticismo? Di soldi ne sono girati veramente tanti in questi anni. Da quando è nata l'autorità nazionale palestinese nel 94 di soldi ne sono arrivati molti, e molti sono stati usati non si sa come, nel senso che c'è stata anche molta corruzione nell'autorità nazionale palestinese, tanto è vero che poi i palestinesi sono andati a votare nel 2006 nelle elezioni più democratiche di tutto il mondo arabo e hanno eletto Hamas, che negli anni dell'autorità nazionale palestinese, visto che anche molti soldi non arrivavano nei villaggi o nei campi profughi, aveva creato un welfare parallelo con le proprie charity, ma con charity che non erano, come dire, sono state considerate un ingranaggio all'interno della struttura di Hamas, ma c'è una distinzione ben netta fra la struttura politica e la struttura della beneficenza, perché è una struttura che precede la stessa formazione di Hamas, che comincia alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60. questo welfare parallelo ha funzionato mentre sull'autorità nazionale palestinese piovevano veramente tanti soldi. Ecco, Paola, anche dall'Unione Europea. Ecco, è sorprendente sentirti dire, forse non è sorprendente, è l'ennesima verifica nell'ascoltare che in realtà non è la materia prima, non sono i quattrini per spingere un paese in difficoltà, un'economia storicamente debole a funzionare, è che non si riesce a mantenere un controllo operativo serio su come poi questi quattrini vengano finalizzati, no? Sì, sarebbe anche difficile farlo perché noi parliamo dei territori occupati come se fossero uno Stato, come certo, se fosse certo. L'Italia, la Francia, e non è così, insomma Cisgiordania e Gaza sono delle entità che non sono uno Stato, che non hanno confini ben precisi, perlomeno la Cisgiordania. Nel caso della Cisgiordania l'esercito israeliano è dentro la Cisgiordania, quindi considerarli come se dovessero funzionare come fossero la Svizzera certo. È un po' come dire un controsenso, però è vero che il controllo ci dovrebbe essere. Ora io però spezzerei anche una lancia a favore non tanto dei palestinesi ma forse contro di noi, nel senso che noi siamo anche responsabili in parte di quello che sta succedendo qui, e quindi questo modo di aiutare è anche un poco per calmierare la situazione sul terreno e per calmierare anche le nostre coscienze. Ecco, ma per concludere, ascoltando quello che dicono appunto queste prime indiscrezioni americane che parlano di finalizzazione di questi quattrini nelle casse di organizzazioni non governative, che cosa ti viene a pensare? Ti sembra insomma un'indicazione interessante o preoccupante? Come lo giudichi? No, è interessante, ma ti faccio solo un esempio. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai donatori per la ricostruzione di Gaza, che è un appello di 613 milioni di dollari per i prossimi 9 mesi. Quindi da queste parti, come dire, le centinaia di milioni di dollari non sono una cosa certo, singolare. Certo. L'Unione Europea di assistenza per i palestinesi nel 2008 ha speso poco meno di 500 milioni di euro in un anno. Certo. Quindi insomma, noi non ci scandalizziamo molto da qui. A vederli girare. Va bene, ti ringrazio dei tuoi pareri, del tuo approfondimento. Vi ricordo, Paola Caridi ha parlato da Gerusalemme, ma ha un libro invece in uscita sul mercato italiano proprio sul tema in questione, da Feltrinelli, tra pochi giorni arriverà in libreria, si chiama Hamas, cosa vuole il movimento radicale palestinese. Detto, che ne so, un anno fa, no? Quando noi ingenui non la sapevamo lunga, che poi un anno più tardi ci saremmo trovati in un certo senso a livello di cronaca internazionale a fare giorno per giorno il diario della crisi. Insomma, la storia di questo Rick Santelli ha scatenato molti di voi. Per esempio Renato ci manda una mail da Milano e dice: sono d'accordo con Santelli, non vedo perché devo farmi carico degli errori degli avidi e degli incauti che hanno stipulato un mutuo alla leggera. Sono in parecchi anche, gli fanno eco anche sulla messaggeria SMS 349-238-6666. Si sono comprati la Iacuzia, intanto c'è chi lavora, dicono in parecchi, in questo caso Enrico da Cagliari. Del resto le cronache della crisi sono cronache quotidiane, basta scorrere le agenzie, soprattutto quelle che arrivano da oltreoceano, si viene a sapere che un sacco di quotidiani americani, per esempio, stanno invocando il Chapter 11, che sarebbe poi alla fine l'amministrazione controllata. Ad esempio, entrambe le due maggiori testate di Philadelphia, l'Enquirer e il Daily News. Si viene a sapere che Forbes adesso stila classifiche delle città fantasma, cioè quelle che sono esplose tutte insieme, no? Sembrano destinate a un futuro chissà quanto luminoso, e adesso sono popolate magari da spettri della crisi anch'esse, e in testa a tutte ci sarebbero Detroit e Las Vegas. Si viene a sapere che il numero 2 della News Corp, ovvero della società di comunicazione di Rupert Murdoch, che si chiama Peter Chernin, ben noto agli addetti ai lavori economici, soprattutto in campo media, avrebbe lasciato il gruppo di cui era dal 96 il presidente, per cui aveva curato soprattutto gli affari a Hollywood. È uno shock, tra l'altro, per la società di Murdoch, perché questo era veramente un personaggio di estremo rilievo. E poi si viene a sapere anche un altro tipo di informazione, ad esempio che riguarda paesi più vicini a noi, l'Europa, no? L'Europa continentale, ma anche le isole, il Regno Unito. Arriva sul Guardian, che è un giornale sempre molto attento alle cose americane e sempre molto attento a prevedere cosa sta per succedere. Esce un articolo di rilievo firmato da Paul Lewis, intitolato Il Regno Unito sta per fronteggiare una estate di rabbia, e in sostanza si parla di una prospettiva paventata proprio dagli stessi organi di sicurezza, dalla polizia inglese, una prospettiva di un deflagrare della violenza nelle città di Occidente. Rabbia e caos, ma non tanto a opera degli estremisti, quanto piuttosto, come capitò anche in anni non sospetti, per esempio nei dorati anni 80, da parte di una middle class, che da una classe media che diventa preda, no, delle proprie paure, delle proprie insicurezze, anche dei propri errori. E si sostiene che la miccia di tutto ciò, che poi dovrebbe, secondo questo articolo, potrebbe diventare una cassa di risonanza in tutto il vecchio continente e mettere quindi anche noi in guardia, potrebbe essere il G20 che si terrà in Gran Bretagna, a Londra, il prossimo aprile. Abbiamo chiamato a questo punto un amico del nostro programma, che è Fabio Cavalera, che per anni è stato il corrispondente del Corriere della Sera da Pechino, ma ora svolge la stessa mansione dalla bella Londra, per sapere se c'è veramente questo timore che la crisi in chiave, no, in salsa europea, possa diventare veramente una questione di protesta, di rabbia diffusa. Buon pomeriggio, Fabio. Buon pomeriggio a tutti voi e a te. Sì, questa preoccupazione c'è. Guarda, nei giorni scorsi sono andato a parlare con il segretario generale del sindacato inglese, Unite, che è l'organizzazione più forte, e mi diceva le stesse cose che poi dopo un paio di giorni sono apparse sul Guardian, e cioè che vi è questo malessere diffuso, forte, pesante, non solo fra la classe operaia, la cosiddetta classe operaia, quello che è rimasto, ma anche fra i colletti bianchi e nel ceto medio, e quindi il pericolo di una esplosione di proteste, anche di massa in piazza, c'è effettivamente, almeno questa è la percezione che si ha. Un ceto medio spiazzato, in pratica. È un ceto medio spiazzato, sì, è un ceto medio colpito pesantemente. Forse Londra non è ancora, non si percepisce ancora, certo, Londra città, la pesantezza della crisi, al di là del cosiddetto miglio quadrato, cioè, nella City ovviamente un po' di uffici sono saltati e alcune centinaia, migliaia di persone hanno traslocato e sono andate via, certamente lì la crisi è arrivata e si vede nella città, c'è, ma forse la vera crisi, anzi sicuramente la vera crisi nel Regno Unito la si vede fuori Londra, e la si vede nelle aree industriali che sono colpite pesantemente, soprattutto l'industria automobilistica, dove si parla addirittura di una prossima chiusura di un'azienda, non viene indicata quale, ma con 6.000 licenziamenti, certo, in ballo dall'oggi al domani, quindi è soprattutto fuori Londra che la crisi si sente. Ecco Fabio, ma pensi che in tutto ciò, come peraltro si può cogliere qui in Italia, dove anzi sembrerebbe che l'aspetto, il versante principale di questo problema, poi finisce in questo grande crescente malessere che riguarda la globalizzazione all'italiana, insomma l'arrivo di cittadini di nazionalità diverse, spesso meno fortunati noi economicamente, e questo difficile melting pot, come si chiamava negli anni 90, certo, che fin qui non funziona, che porta poi fino a fenomeni tipo la questione delle ronde, l'insofferenza e quant'altro. È anche lì dove il fenomeno invece è stato in un certo senso seguito, anche curato con maggiore attenzione, anche di una portata diversa. È anche una questione di razza, o è veramente invece una questione che nasce dalla modifica delle condizioni economiche di vita? Beh, direi che le due questioni sono strettamente intrecciate, cioè la crisi porta a una maggiore paura, porta a una maggiore insicurezza, ed emergono chiaramente segnali di xenofobia e di razzismo nei confronti di chi viene da altri paesi e soprattutto da paesi extraeuropei, anche se purtroppo in qualche caso c'è stato il famoso sciopero nei crociai anche contro gli italiani, è un sentimento che rischia di manifestarsi anche nei confronti di paesi e di lavoratori di paesi europei. Direi che le due cose marciano assieme, la paura di perdere il lavoro, la paura di vederselo soffiare, la paura di vederlo in qualche modo accaparrato da chi non è, come si suol dire, britannico, e quindi emergono queste paure e questi pericoli. Ecco, per concludere telegraficamente, visto che ci siamo andati vicino, te lo voglio chiedere, ma insomma nel Regno Unito di ronde si è mai sentito parlare, e soprattutto delle ronde italiane qualcuno si sta facendo un'opinione, comincia a nascere qualche commento a riguardo? Bene o male siamo a un tiro di scopo uno dall'altro. Certo, ma esistono, è un fenomeno che esiste, e quindi non si guarda all'Italia come a un qualcosa di un fenomeno particolare. Esistono le ronde in molte città inglesi, e quindi, come dire, è un fenomeno italiano, cioè noi giustamente ne stiamo discutendo, ne stiamo parlando per capire cosa deve avvenire, che cosa sarà, però credo che questo non è il vero problema per gli inglesi. Va bene, riprenderemo magari il discorso in una prossima puntata. Grazie a Fabio Cavalera del Corriere della Sera. Adesso purtroppo il tempo è tiranno e siamo alla sigla, siamo a Vivian, facciamolo sentire, va dai. Ronde e questioni razziali nelle città inglesi, nella provincia inglese, quella di cui si parla assai meno, no? Noi pensiamo sempre a Londra, a Westminster, allo shopping a Oxford Street. In realtà il Regno Unito è un'altra cosa. Ci piacerà tornarci sopra presto. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Fabio Cantadori. La mail jefferson2@radio24.it, e poi i nostri due ormai frequentatissimi siti Facebook. Quello per parlare con noi si chiama Redazione Jefferson2, quello per partecipare ai nostri focus quotidiani si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Iscrivetevi a entrambi. La puntata va in replica a mezzanotte, è disponibile al più presto in podcast e MP3, buonanotte, e soprattutto va in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo sotto il diluvio. Yeah.